Ah, che bello! Tutto bene? Dio è così buono, così grande, amen? Amen? Dai, aiutatemi. Ah, è così bello di essere qui con voi. Mia moglie Liliana vi manda un caloroso saluto da lei. Ci dispiace, molto gelosa che io sto qui, che sono stata alla conferenza di Ecclesia e lei non ha potuto venire, però vi mando un saluto e un fortissimo abbraccio a tutti voi. Mirko, grazie per questa opportunità, questo onore di essere qui per condividere la parola di Dio con voi. E ti voglio tanto bene. Sono un paio di anni che ci conosciamo, che stiamo sviluppando questa amicizia, questa relazione. È veramente una benedizione, credo che non è stato per causa, ma c'è veramente qualche cosa divino con la nostra connessione. Dal momento che io ho incontrato il pastore Mirko, ho sentito che io dovevo essere uno di quelli che lo incoraggiava, e mi ricordo a quel tempo stavo passando un po' un tempo di sfida, e ogni tanto gli mandavo un WhatsApp message, lo so che lui l'ha apprezzato molto. Siamo un po' simili, la maggiore differenza è che io già sono sposato per 27 anni e lui ancora non ha una fidanzata, però a parte questo, siamo cresciuti nella chiesa, abbiamo i papà nostri che sono pastori, abbiamo tutti e due lavorato con i nostri papà nella chiesa locale e abbiamo condiviso un po' la storia mia crescendo nella chiesa. Oggi era molto pieno di ricchezza, e allora credo che questo è un altro scopo perché il Signore ci ha connessi insieme. Amen? Amen. Grazie per il vostro affetto, generosità e il benvenuto. Adesso parlerò inglese, è più facile. Ma aspetta, prima che parli inglese, quando di voi, dopo questi tre giorni che avete stato nella conferenza ecclesia, siete usciti innamorati con la Chiesa ancora di più? Ah, potete alzare anche le voci, potete dare un grido di gioia. Ci siamo innamorati ancora di più della Chiesa? Perché se ci siamo innamorati ancora di più della Chiesa, significa che ci siamo innamorati ancora di più uno con l'altro, perché la Chiesa siamo noi. Amen. I still believe in the church. Io credo ancora nella Chiesa. Do you believe in the church? E tu ci credi nella Chiesa? Tonight I want to encourage you as a church. Oggi voglio incoraggiare ognuno di voi in quanto Chiesa. And I want to share this message from the bottom of my heart. E voglio condividere questo messaggio dal profondo del mio cuore. Now, we have to have a little deal here. Ora dobbiamo prendere un accordo qui. I'm going to preach with all the passion I have. Io predicherò con tutta la passione che ho. But you need to respond with all the passion that you have. Ma voi dovete rispondermi con tutta la passione che voi avete. Something happens. Qualcosa succede when we respond. Quando noi rispondiamo to the message that's being delivered. Al messaggio che abbiamo ascoltato. And tonight's message, e il messaggio di questa sera, as you respond to it, nel momento in cui noi rispondiamo adesso, something will begin to happen. Qualcosa incomincerà a succedere. Because I believe God wants to do so much more through your church. Perché io credo che Dio voglia fare tanto di più attraverso la Chiesa. How many of you believe that tonight? Quanti di noi That God isn't finished with Pieno Vangelo. Dio non ha finito con la Pieno Vangelo. That he has so much more. Ma che lui ha così tanto in più in sé. And as I was preparing to come to the Ecclesia conference and be with you this weekend. E nella preparazione di questo messaggio, nello stare alla conferenza questo weekend. I was beginning to remember some of the memories that I've had growing in the church. Ho incominciato a pensare a come sono cresciuto all'interno della chiesa. And just how much I appreciated my heritage growing up in the church. L'eredità che la chiesa mi ha dato. Neanche questo funziona. I have a strong voice anyways. Forse il Signore mi sta a dire che devo predicare in italiano. Maybe. Non corro. Ma speriamo che funzioni. It works. Okay. I was born in the church and I grew up in the church. Sapete, io sono nato in chiesa e sono cresciuto in chiesa. How many of you grew up in the church? Quanti di voi siete nati in chiesa? Let me see, you've grew up in the church. E state okay. Crescendo, siete nati e cresciuti in chiesa. The great majority of you. Ce ne sono parecchi di voi. Growing up, I was in church at least 4 times a week. Nella mia crescita, quando ero piccolo, ero in chiesa almeno 4 volte alla settimana. I had many sleeps on the pews of the church. Tante volte ho dormito sulle panche della chiesa. Literally, I was born in the hospital. Davvero, sono nato in ospedale. And then after a few days, my parents took me to the apartment that was part of the church. E dopo pochi giorni i miei genitori mi hanno portato in questo appartamento che faceva parte della struttura che avevamo noi come chiesa. So I literally lived in the church. Quindi letteralmente ho sempre vissuto in chiesa. And my dad was the pastor of this church, this Italian Pentecostal church in Canada. E mio padre era pastore di questa chiesa italiana pentecostale in Canada. And I was the little boy that I would wake up from my nap and I would crawl out of my crib. Ed ero quel bambino che dopo il sonnellino passavo dalla culla e andavo in chiesa. And I would go down the stairs to the office of the church. E scendevo quelle scale e mi dirigevo negli uffici della chiesa. And I would climb up to the chair that was across the desk of my father. E poi cercavo di salire su questa sedia che era vicino alla scrivania di mio padre. That he would use when he would counsel people. Quella sedia dove si sedevano le persone durante gli appuntamenti con mio and padre. I would sit on that chair and I would watch him write his sermons. E quindi ero lì seduto su quella sedia e guardavo mio padre mentre scriveva i suoi messaggi, le sue prediche. And there were times when I would go and I would find him on his knees and he was praying. E c'erano tante volte in cui andavo e lo trovavo in ginocchio in preghiera. I was that little boy that every Saturday morning I would find my way into the sanctuary of the church. Ero quel ragazzo che ogni sabato mattina si faceva via e andava in chiesa. And I would go into the auditorium and I would fix all the hymn books in the pews of the church. E entravo in chiesa e addrizzavo tutte le sedie, tutto quello che c'era sopra le sedie. So that everything was straightened out for Sunday morning. Così che tutto potesse essere pronto per il giorno dopo, per la domenica mattina. I was that boy that did that. Ero quel tipo di ragazzo che faceva questo tipo di cose. I would go on the pastoral visits with my father and visit the people in their homes. E andavo insieme a mio padre durante le visite che lui faceva. But there was a motive. I liked going because the sisters would give me chocolate and candy. E mi piaceva perché chiaramente le sorelle e i fratelli mi davano le cioccolate ogni volta che andavo. And every once in a while the brother would put a dollar in my pocket. E ogni tanto i fratelli mi davano pure un dollaro. And so I really enjoyed going on these visits with my father. E quindi insomma mi piaceva accompagnare mio padre durante queste visite che faceva. I was in charge back in that day. You know, in that day we didn't have the media projector, we had overhead. Sapete, a quel tempo noi non avevamo il proiettore, avevamo la lavagna luminosa. My responsibility was to put the slides on the overhead projector. E la mia responsabilità era proprio quella di mettere i lucidi sulla lavagna Did luminosa. You ever do that? L'avete mai fatto? And you know what was so stupid? E sapete cosa era veramente stupido? The song leaders, you would think they would give you the list of songs before the service so you can prepare the slides. noi ci aspettavamo che insomma chi guidava la lode ci avrebbe dato la lista dei canti che avremmo cantato prima. No, because that's not led by the Holy Spirit. Ma no, non era il caso, perché in quel caso non sarebbe stato lo Spirito Santo ad ispirare. So when they would start singing the song, I had to go find it and I had to pull it out. E quindi succedeva che appena il worship leader incominciava a cantare, io ero lì che cercavo i canti e il lucido giusto da proiettare. And so I would have a contest with my friend who did it quicker. E quindi facevamo a gara con il mio amico a chi faceva prima a trovare questo lucido. I was involved in many evangelistic campaigns, door to door, sending invitations, inviting people to events. Sono stato impegnato in tanti eventi evangelistici, porta a porta, a dare opuscoli e volantini per predicare il Vangelo. I was the boy that would go with my grandparents on the bus of the church to go to church on Sunday night. Ero quel ragazzo che andava, accompagnava il nonno che guidava questo autobus come servizio per l'incontro di domenica la sera. And I would get on that bus and all the elderly would be on the bus. E quindi questo era un servizio per le persone anziane della chiesa, quindi salivo su questo autobus. And that bus was the pre-service prayer for the service. Ed era lì che succedeva la riunione di preghiera prima dell'incontro. And I was scared to go on the bus. E in realtà mi faceva paura salire su quest'autobus. Because it was crazy on that bus. Perché era pazzesco esserci. I mean, these elderly were praying for the Sunday night service and speaking in tongues and just it was insane. Cioè, immaginate tutta questo gruppo di anziani che pregano per il culto, che parlano in lingue, era pazzesco. And the bus driver, he's driving the bus and he's put one hand up and he's driving. E c'era l'autista che mentre guidava alzava il braccio e guidava allo stesso tempo. And then he would start crying and tears would be coming down his face. E ad un certo punto si poteva mettere anche a piangere, quindi alla guida aveva gli occhi pieni di lacrime. And I was like, watch out, we're gonna crash this bus. E io ero lì, per piacere stai attento, stiamo per fare un incidente qui. And the people are praying intensely. Ma qui le persone, quegli anziani, erano intenti a pregare. And I can tell you there were moments on that bus where the Holy Spirit was so powerful and intense. E io vi posso raccontare di momenti su quell'autobus in cui lo Spirito Santo si è rivelato e la presenza era così forte. That the bus driver had to pull over. Che l'autista doveva addirittura fermarsi. And compose himself because the power of the Holy Spirit was so strong. E ricomporsi perché la potenza dello Spirito Santo era così forte. And then we would get back on the road and we would make our way to the church and finally get to the church. E poi dopo essersi ricomposto si metteva alla guida e finalmente arrivavamo in chiesa. And the church started at 6 p.m. E l'incontro incominciava alle 6 di sera. And the bus starts emptying out with 50 people. E quindi vediamo, immaginate queste 50 persone che escono dall'autobus. And all the front few rows were all reserved for these people. E le prime file della sala erano tutte riservate per queste persone che scendevano dall'autobus. And we would walk into the auditorium. E quindi noi entravamo nell'auditorium. And the worship would start. E la lode aveva inizio. And I'm telling you, the presence of God was so tangible. E davvero la presenza di Dio era così tangibile. And we saw a season of a mighty move of God and renewal take place. E abbiamo visto proprio l'opera e Dio muoversi in maniere incredibile. People being set free and delivered and transformed. Persone che sono state liberate e sono state guarite e trasformate. Salvations every Sunday night and water baptisms. C'erano persone che erano salvate ogni domenica e battesimi. I was that boy that got to experience that as a child in the local church. E io ero quel ragazzo che ha avuto la possibilità di sperimentare tutto questo sin dalla giovane età nella chiesa locale. And today I am thankful for the heritage that I've had. E io oggi sono così grato di questa eredità che ho avuto. Growing up in the church with all of its imperfections and disappointments and challenges. Crescendo nella chiesa e vedendo tutte quelle anche le imperfezioni divisioni e le difficoltà all'interno della chiesa. And even experienced hurt and pain in the church. E ho anche sperimentato dolore all'interno della chiesa. But I can say tonight. Ma io posso dirvi questa sera. That I'm so thankful for growing up in the church and my heritage. Che sono così grato di essere cresciuto in chiesa e dell'eredità che questo mi ha dato. That I was planted in the local church as a young boy. Che ho fatto parte sin dalla mia tenera età di una chiesa locale. Because my experience in the church formed me and shaped me. Perché la mia esperienza in chiesa mi ha formato. It has created a positive trajectory for my life. Ha creato una traiettoria, una direzione per la mia vita. And I could say tonight, e io posso dirvi questa sera, that if it wasn't for the church, che se non fosse stato per la chiesa, maybe today I would not be here. Forse oggi io non sarei qui. Maybe I would have never been called to the ministry. Forse non sarei mai stato chiamato al ministero. Maybe I wouldn't be doing what I'm doing today. Forse non mi ritroverei a fare quello che sto facendo oggi. And so tonight we need to give God all the glory. E quindi stasera dobbiamo dare a Dio tutta la gloria. And we need to thank God for the church of Jesus Christ. E dobbiamo ringraziare Dio per la Chiesa di Cristo. We need to give Him thanks tonight for the church. Dobbiamo ringraziarlo stasera come Chiesa. I still believe in the church tonight. Io credo ancora nella chiesa. I still believe that the church is the hope of the world. Io credo ancora che la chiesa è la speranza per il mondo. The way God is going to change Modugno, and the way God is going to change Bari, and the way God is going to change Puglia. È il modo in cui Dio cambierà Modugno e cambierà Bari e cambierà la Puglia. And all of Italy. E tutta l'Italia and intera. And the world around us. E tutto il mondo che it's ci circonda. It's going to be through the church. Of Jesus sarà trasformato attraverso la chiesa di Gesù Cristo. The church is the vehicle that God has chosen to bring hope to a lost and a broken humanity. La chiesa è il veicolo attraverso il quale Gesù ha scelto di portare la speranza e la salvezza all'umanità che è senza speranza. To a world without any hope. Un mondo che è disperato. I'm telling you tonight, it's not going to happen through a political campaign. Io vi dico oggi che il cambiamento non succederà attraverso una campagna politica. It's not going to happen through the government sector. Né attraverso il governo. It's not going to happen through the educational sector. Né attraverso l'istruzione. But transformation is only going to come through the local church of Jesus Christ. Ma la trasformazione succederà solo attraverso la chiesa di Gesù Cristo. The church of God is his plan. La chiesa di Gesù Cristo è il suo piano. It's his idea. È la sua idea. It's plan A. È il suo piano A. There is no plan B tonight. E non c'è un piano B questa sera. The church is plan A. La chiesa è il piano A. And God says, I choose the local church to bring hope and transformation to the world. E Dio dice, io ho scelto la chiesa per portare speranza e trasformazione nel mondo. The church, ecclesia. La chiesa, ecclesia. You are the church tonight. Tu sei la chiesa. We are the church tonight. Noi siamo la chiesa. And through Jesus Christ, we are the hope to our world. E attraverso Gesù Cristo noi siamo la speranza per questo come mondo. Come on, if you believe that the church is still the hope for Italy and the world, let's give them a celebration tonight. Let's lift up the name allora of Jesus. Allora perché non tonight. Un applauso a Dio e non lo lodiamo? Hallelujah. Psalm says in 26 verse 8. Il Salmo 26 al versetto 8 dice. It says, Lord, I love the house where you live. Dice, oh Signore, io amo la casa, il luogo dove tu risiedi. The place where your glory dwells. Il posto dove la tua gloria è presente. We can say tonight, Lord, I love the church. Noi stasera possiamo dire, Signore, io amo la chiesa. I have zeal for your house. Ho uno zelo per la tua casa. And your zeal consumes me. E questo zelo, il tuo zelo mi consuma. Can you say tonight, I love the church? Lo puoi dire stasera, io amo la chiesa. Let's say it together. Perché io non lo diciamo amo insieme. Io amo la chiesa. I love everything about the church. Io amo tutto della chiesa. I love my pastor. Amo il mio pastore. I love the worship in my church. Amo l'adorazione nella mia chiesa. I love the preaching that is preached in my church. Amo i messaggi che sono condivisi in chiesa. I love the coffee that's served at the coffee bar in my church. Mi piace il caffè che posso prendermi in chiesa. I love the friends that I have in church. Amo gli amici che posso avere in chiesa. I love the sense of community in church. Amo quel senso di appartenenza in chiesa. I love the connect groups. Mi piacciono, amo i gruppi in casa. I love being the last person to leave church on Sundays. Amo essere l'ultima persona che lascia questo luogo ogni domenica. I love those crazy announcements that we get to see every weekend. Amo le notizie pazzesche che ogni settimana sentiamo. I love the church. Io amo la chiesa. I actually have a tattoo. Io no, I'm just kidding. Ho un tatuaggio. No, non è vero. It says I love your house. I love your house. Dico al Signore, io amo la tua casa. If you fall in love with anything, se tu devi innamorarti di qualcosa, you should fall in love with the church of Jesus Christ. Dovresti innamorarti della chiesa di Gesù Cristo. Because it is the hope of the world. Perché è la speranza per il mondo. Because it's His plan. Perché è il suo piano. It's His idea. È la sua idea. He sat down one day and he said, "How am I going to transform the city of Modugno?" Lui si è seduto un giorno e ha pensato, come posso trasformare la città di Modugno? How am I going to transform Bari and Puglia? Come trasformerò Bari e come trasformerò la Puglia? How am I going to change Italy? Come cambierò l'Italia? How am I going to touch every tribe and every tongue and every nation? Come posso toccare ogni tribù e ogni etnia e ogni lingua di ogni nazione? He says, "I choose the church as my plan and as the solution to the world." E ha detto, io scelgo la chiesa come mio piano e come la soluzione per questo mondo. Ephesians chapter 3 verses 9 to 10. Efesini al capitolo 3 dal 9 al 10. It says, "And to make plain to everyone." You can read it in Italian. Dice così: "E di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio." What was a mystery? Quello che era un mistero. What was hidden? Quello che era nascosto. What was a secret? Quello che era un segreto. Is no longer a mystery tonight. Non è più un segreto questa sera. It's no longer hidden tonight. Non è più nascosto questa sera. It's no longer a secret tonight. Non è più un segreto. But now the intent is that through the church, ma adesso l'intento, sappiamo che attraverso la chiesa, it will declare victory over principalities and powers of darkness on the earth. Che dichiara vittoria al di sopra delle potenze del male, dell'oscurità sulla terra. And it will be the brightest light in the world. E sarà la luce più forte nel mondo. The church is no longer hidden. La chiesa non è più nascosta. It's no longer a mystery. Non è più un mistero. It's no longer a secret. Non è più un segreto. But the church today declares that Jesus is alive. Ma la chiesa oggi dichiara che Gesù è vivo. It declares the goodness of Jesus. E dichiara la bontà e le grandezze di Gesù. Declares the faithfulness and the forgiveness of Jesus. Dichiara la fedeltà e il perdono di Gesù. It declares the love and the hope of the gospel. Dichiara l'amore e la speranza che c'è nel Vangelo. It will be the brightest light in the world. E sarà la luce più splendente nel mondo. The church is no longer hidden. La chiesa non è più nascosta. I want to prophesy the church in Italy is no longer hidden behind religion. Io voglio profetizzare questo, che la chiesa in Italia non è più nascosta la religione. But it's come out. Ma è venuta fuori. We got to give thanks for this amazing gift called the church today. E dobbiamo ringraziare per questo regalo meraviglioso che si chiama chiesa. The church is God's vision. La chiesa è la visione di Dio. The church doesn't have a vision. La chiesa non ha una visione. The vision of God has a church. La visione di Dio ha la chiesa. Many times when I'm among pastors, I hear their conversations. Tante volte mi ritrovo insieme ad altri pastori e ascolto le loro conversazioni. Especially in a conference. Specialmente nel contesto di una conferenza. And you know, one of the most common questions pastors ask each other. E sapete, una delle domande più frequenti che i pastori si domandano l'un l'altro. So what's the vision of your church? Allora, qual è? Raccontami, qual è la visione della tua chiesa? Yeah, what's the strategy? Qual è la strategia? And it always amuses me because I'm overhearing their conversation. E mi meraviglia sempre perché insomma cerco sempre di sentire le conversazioni. And I get amused listening to how some pastors answer. E mi intrattengo ascoltando quello che sono le risposte di alcuni pastori. And they're there trying to describe the vision of their church in a very eloquent way. E sono lì che cercano in maniera molto eloquente di spiegare qual è la visione, la strategia della chiesa. Explain the strategy, yes, to impress that other pastor. E lo fanno anche in modo da fare buona impressione agli altri pastori. Oh yeah, our vision, man, it's the best. Sì, sì, la nostra visione è una delle migliori. Yeah, wow. God's vision. Ma è la visione di Dio. God's vision has a church. È nella visione di Dio che ritroviamo la chiesa. A church that's alive. Una chiesa che è viva. It's full of passion. Che è piena di passione. A place where broken people can come and become healed. Un posto dove persone ferite possono entrare, possono trovare guarigione. Where miracles can take place. Dove possono accadere dei miracoli. Where salvation can take place. Dove le persone possono incontrare salvezza. Where generations are changed. Dove generazioni possono essere cambiate. Where families come together. Dove famiglie sono riunite. God's vision has a church, and God says to you today. La visione di Dio include la chiesa e Dio ti dice oggi. I see a church that loves to worship. Io vedo una chiesa che ama adorare. That loves to pray. Che ama pregare. That lifts up their hands in surrender. Che alza le loro and loves to be generous. Le loro mani in in arresa e che ama essere generoso. Loves to serve. Che ama servire. This is God's vision for His church. Questa è la visione che Dio ha per la sua chiesa. And He is the head of the church. E lui è il capo della chiesa. And He's building His church. E lui sta costruendo, edificando la sua chiesa. Come on. Sì? Jesus is the head of the church. Gesù è il capo della chiesa. Mirko's not the head of the church. Mirko non è il capo della chiesa. Pastor Pinuccio is not the head of the church. Il pastore Pinuccio non è il capo della chiesa. The executive pastors, they're not the head of the church. E tutti gli altri pastori non sono i capi della chiesa. But Jesus is the head of the church. Ma è Gesù che è il capo della chiesa. And he's building his church. Ed è lui che sta edificando la sua chiesa. It's his plan, his idea, his vision. È il suo piano, è la sua visione, è la sua idea. And he's building it. E lui la sta edificando. But ma he uses ordinary, imperfect, broken people like you and me. Lui usa persone ordinarie, magari ferite, limitate come te e me. To be part per essere parte of building dell'edificazione his glorious house della sua casa gloriosa. How could he possibly use ordinary, perfect people like us? Ma com'è possibile che lui si usi di persone imperfette ed ordinarie? Don't try to figure it out because you never will. Non cercare neanche di capirlo perché non riesci. We will never understand that. Noi non riusciremo mai a comprenderlo. All I know is that he chooses. Tutto quello che io so è che lui ci sceglie. In Matthew we see how Jesus looks at Peter. In Matteo vediamo Gesù, come Gesù guarda Pietro. Who soon will deny him three times. Che è solo una questione di tempo e lo rinnegherà tre volte. Proving that you can make a mistake and still be used of God. Provando il fatto che tu puoi fare un errore e Dio si può ancora usare di te. The Bible says, though a righteous man can fall seven times, he still rises. La Bibbia dice, nonostante l'uomo giusto può sbagliare sette volte, lui ancora è innalzato. Just because you fell down, it doesn't mean you have to stay down. Solo perché sei caduto, non significa che devi rimanere per terra. you can get back up in Jesus' name. Perché tu ti puoi alzare nel nome di Gesù. And some of you, the devil has kept you down for too long. E in molti di noi il diavolo ha cercato di trattenerci per terra per troppo tempo. And for too long you haven't been living up to your fullest potential. E per troppo tempo tu non hai vissuto in maniera coerente con il tuo pieno potenziale. You haven't been living out your calling. Non stai vivendo a pieno la tua chiamata. Because you've allowed your past mistakes and failures define you. Perché tu hai permesso ai tuoi peccati e sbagli passati di definire la tua identità. And the lies of the enemy have kept you down. E le bugie del nemico ti hanno trattenuto per terra. But tonight, in this atmosphere of the Holy Spirit and the presence of God, He wants to lift you back up. Ma questa sera, in questa atmosfera, nella presenza di Dio, lo Spirito Santo vuole che ti rialzi, vuole rialzarti. And He wants to place you back in your calling, fulfilling the purpose and the destiny that's on your life. E vuole posizionarti nuovamente nel destino che lui ha, dove vivi appieno il tuo potenziale. And be part of building His church. E puoi essere parte della costruzione, dell'edificazione della chiesa. And then in Matthew 16, e poi in Matteo 16, Jesus says Peter, Gesù dice a Pietro, you have to understand and know this. Dice Pietro, tu devi comprendere questo. You are Peter. Tu sei Pietro. You are Antonio. Tu sei Antonio. Vito. Vito. Sara. Sara. Mirko. Mirko. Naomi. Noemi. Noemi. It's okay. And on this rock, e su questa pietra, I will build my church. Io edificherò la mia chiesa. And the gates of hell will not prevail against it. E le porte del nemico non prevaricheranno su di lei. I will build my church. Io edificherò la mia chiesa. It's God's church. È la chiesa di Dio. He's the head of the church. Ed è lui il capo della chiesa. And he's building it. E lui la sta edificando. But he invites you and me to partner with him. Ma lui invita te e me a lavorare insieme a lui. Let's build something great together. E allora costruiamo qualcosa che è meraviglioso insieme. Let's build something great together in Italy. Costruiamo qualcosa di meraviglioso in Italia. You see, when you partner with God, and you build His church. Sapete, quando collabori con Dio e costruisci la sua chiesa, you become a co-laborer with Christ. Tu diventi proprio un collaboratore. And God needs hands and feet and eyes and people. E Dio He needs. E Dio ha bisogno di mani, di piedi, di occhi. For someone who will surrender their gift and talent and time and treasure. Cerca qualcuno che arrende i suoi talenti per la chiesa. It's not going to be built by itself. Perché la chiesa non si costruisce da sola. It needs someone who's willing. Ma lui cerca qualcuno che è disposto. And says, I'm available. E dice, sono qui, sono disposto. I'll give everything. Do tutto. How many of you are willing? Quanti di voi? And you're ready. Sono disposti e pronti. To build the greatest church that's ever existed in Italy. Per edificare la chiesa più meravigliosa che non sia mai esistita prima d'ora. So how are we going to do this? E quindi, come lo facciamo? How are we going to achieve this? Come possiamo raggiungere questo obiettivo? How is this house going to fulfill the vision that God has for Pieno Vangelo? Come possiamo, con tutto questo, realizzare la visione che Dio ha per la Chiesa Pieno Vangelo? In 1 Thessalonians chapter 1. In Primo Tessalonicesi, al capitolo 1. The Church of the Thessalonians. La Chiesa di Tessalonica. Now let me personalize this a little bit. Let me give it some edit. Permettetemi di modificare un po' questo verso, di personalizzarlo un tantino. Can I do that? Posso farlo? But promise me you're not going to judge me as a heretic. Mi promettete che, insomma, non pensate che io sia un eretico e non mi giudicate. To the Church of Pieno Vangelo. Alla Chiesa del Pieno Vangelo. In God the Father, the Lord Jesus Christ, grace and peace to you. In Dio il. Jesus. siamo. Sì, sì. In Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace. We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. Noi ringraziamo sempre Dio per tutti voi, nominandovi nelle nostre preghiere. We remember before our God and Father. Ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre. And here's our key verse. Questi sono i nostri versi chiave. Your work produced by faith. Dell'opera della vostra fede. Your labor prompted by love. Delle fatiche del vostro amore. And your endurance inspired by hope. E della costanza della vostra speranza. For we know, brothers and sisters loved by God. Perché noi sappiamo, fratelli e sorelle amate da Gesù, that che he has chosen you. Lui ha scelto noi. He's chosen you. Lui ha scelto te. This church has been chosen. Questa chiesa è stata scelta. Each and every one of you. Ognuno di noi è stato scelto. You've been chosen. Tu sei stato scelto. The body has many parts. Il corpo ha tante membra. And you are a part of it. E tu sei una parte di questo and corpo. And as each part says yes and does his work. E quando ogni parte dice sì e svolge il proprio lavoro. As you say yes and realize that God has chosen you to do something. Con il tuo sì, quando ti rendi conto che Dio ti ha scelto per fare qualcosa. That you aren't here by accident, but you are here because you have been called and you have been chosen. Che tu non sei qui per caso, ma tu sei qui perché sei stato chiamato, sei stato scelto. That God planted you here. E che Dio ti ha posizionato qui. Because your gospel came to you not simply with words but with power of the Holy Spirit. Perché il Vangelo è venuto da te non solo per parole ma con la potenza dello Spirito Santo. And deep conviction. È una convinzione profonda. I know there's a deep conviction. Io lo so che c'è una convinzione profonda. In the core of your vision of this church. Nel cuore della visione di questa chiesa. You know how we lived among you for your sake. Sapete come abbiamo vissuto tra di voi. You became imitators of us and the Lord for you welcomed the message in the midst of severe suffering. Voi siete voi siete diventati imitatori e avete dato il benvenuto al nostro messaggio nel bel mezzo delle sofferenze. Joy given by the Holy Spirit. E la gioia data a voi dallo Spirito Santo. Sometimes you have to go through suffering before while you're doing the work of the Lord. Qualche volta dobbiamo attraversare dei momenti difficili nel fare l'opera di Cristo. But you do it with joy because there's deep conviction. Ma noi la facciamo con gioia, spinti dalla profonda convinzione che abbiamo. And so you became a model. E quindi nel fare questo voi siete diventati un modello. You're becoming a model. Voi state diventando un modello. To all the believers in Macedonia and Achaia, or shall I say Puglia and Italy? A tutti i credenti della Macedonia e nell'Acaia, o forse dovrei dire in Puglia. The Lord's message rang out from you. Il messaggio di Cristo è arrivato a voi. There's something that's ringing out from this church. E c'è qualcosa che si sta facendo sentire da questa chiesa. There's something that's reverberating from this church. C'è qualcosa che sta uscendo fuori da questa chiesa. There is a reputation that's ringing out from this place. C'è una reputazione che si sta facendo vedere e sentire che parte da questa chiesa. That you don't even know people are observing and watching. Che tu non lo sai neanche, ma le persone stanno osservando, ci stanno osservando. And your message, your model of drawing people to want to have what you have. E il tuo esempio e il tuo messaggio non sta facendo altro che attrarre le persone che vogliono la stessa cosa che hai tu. Not only in Puglia, but in Italy. E non solo in Puglia, ma in tutta l'Europa. But your faith in God has become known everywhere. E la vostra fede in Dio è stata conosciuta dappertutto. That's prophetic for you. E questo è profetico per voi. There is a reputation that you as a church are having right now. C'è una reputazione che come chiesa noi stiamo avendo in questo momento. But it's just the beginning. Ma è solo l'inizio. There's more. c'è molto di più. There's so much more. C'è così tanto di più. That God wants to ring out of the walls of this church. Che Dio vuole far conoscere al di fuori delle quattro mura di questa chiesa. All around the world. Attorno a tutto il mondo. How many of you believe that tonight? Quanti di voi credono questo? Come on, would you just receive this word in your heart? Perché non ricevete questa parola? Receive this word as yours. Ricevetela. To the church of Pieno Vangelo. Perché è alla chiesa del Pieno Vangelo. There is more to be done. C'è di più che You're deve essere fatto. Yet. Noi non siamo arrivati. God needs to be glorified throughout the entire world. Perché Dio vuole essere glorificato in tutto il mondo. And I want to encourage you to run towards your future. E io voglio incoraggiarvi a protendervi verso il futuro. Run. A correre verso il futuro. Run with great courage. A correre con grande coraggio. With zeal. Con zelo. With passion. Con passione. Toward your future. Verso il tuo futuro. Run. A correre. Run. Are you ready to run toward your future? Sei pronto a correre verso il futuro? And your work. Is produced by faith. Nelle opere prodotte dalla fede. Your labor promoted by love. Dalle fatiche prodotte e spinte dall'amore. Your endurance inspired by hope. Dalla costanza ispirata e basata sulla speranza. There's the message right there. Questo è la chiave del messaggio. That's how you're gonna build the glorious church. Questo è come noi possiamo edificare una chiesa gloriosa. You're gonna do it by working in faith. Dobbiamo farlo lavorando in fede. You're gonna do it through the motivation of laboring in love. Dobbiamo farlo essendo motivati e sforzandoci nell'amore. And enduring hope. E nel perseverare nella speranza. We're gonna build the church by our work of faith. È così che costruiremo la nostra chiesa come un'opera per di fede. The work is done in faith. Perché il lavoro, l'opera è svolta, si fa in fede. Our work is produced by faith. Il nostro lavoro è prodotto dalla fede. And faith leads you to action. È perché la fede ti guida all'azione. Your faith produces good works. La tua fede produce buone opere. And work and faith are inseparable. E opere e fede sono inseparabili. See, I can't say, okay, Noemi. Io non posso dire, va bene, Noemi. I'll take care of the faith department. Io mi prendo cura del settore della fede. I'm the faith man right here. Io sono l'uomo della fede. And you take care of the work. You do all the work. E tu ti occupi delle opere, tu fai tutte le opere. Doesn't work that way. Non funziona così. Faith and works go together. Opere e fede vanno, lavorano They insieme. Go hand in hand. Vanno mano a mano. Faith always moves you and me to action and to do something. E la fede ti spinge all'azione, a fare qualcosa. And when we step out in faith, e quando noi avanziamo in fede, something begins to happen. Allora qualcosa incomincia a succedere. Something gets released from the heavens. Qualcosa viene rilasciato dai cieli. It opens the doors of heaven for the opportunity of the kingdom of God to come. Apre le porte dei cieli per affinché il regno possa scendere. Peter walked on the water because he stepped out of the boat. Vediamo Pietro che ha camminato sulle acque perché è uscito dalla barca. His faith moved him to action. La sua fede l'ha spinto all'azione. His faith moved him to step out of the boat. La sua fede l'ha spinto ad uscire dalla barca. To step out of his comfort. Ad uscire dalla sua zona di comfort. To step out and take a risk. Di fare un passo e correre un rischio. To step out and do something that he never did. Di azzardarsi a fare qualcosa che non aveva mai fatto prima. And God is calling you in this next season to step out and take a risk. E Dio ti sta chiamando in questa prossima stagione ad uscire fuori in fede e a correre dei rischi. He's calling you to do things that you've never done before. Dio ti sta chiamando a fare delle cose che non hai mai fatto prima d'ora. Are you ready? Sei pronto? Are you ready, church? Sei pronta, chiesa? In Mark chapter 2 we see the story of the paralytic man. In Marco al capitolo 2 vediamo la storia dell'uomo paralitico. These four friends were carrying his friend that was paralyzed on a stretcher. E i suoi quattro amici lo vediamo che stavano trasportando il loro amico su un lettino. And the people knew that Jesus came back home to Capernaum. E le persone sapevano che Gesù era ritornato a casa a Capernaum. And so the crowds came and gathered at this house. E così vediamo tutta la folla che si avvicina nella casa dove c'era the Gesù. The house was filled. La casa era piena di the persone. Crowd went through the front entrance outside the door of the house. La folla si era diretta tutta all'entrata della casa. Because stessa. Jesus was present. Perché Gesù era lì. How many of you know that when Jesus is present? Quanti di noi sappiamo che quando Gesù è presente, when he's in the center of the church, quando è al centro della chiesa, it's going to draw the crowd. Allora è lui che attrae. It's going to draw and attract the people. Le folle, le persone. And people gather. E le persone si riuniscono. And so they're bringing this man to this house. E quindi questi amici stanno portando questo amico a questa casa. And they get to the house. E arrivano a questa casa. And they couldn't get in. E chiaramente non possono entrarci. And so they are, what are we gonna do? E quindi loro si chiedono, mamma mia, come possiamo fare? These men were so determined. Questi ragazzi erano così determinati. They said they climbed up to the roof of the house. E così si sono arrampicati fino al tetto della casa. And they began to dig into the roof of the house. E hanno incominciato a scavare, a togliere le tegole del soffitto. And they made a hole into the roof of this house. E hanno fatto proprio un buco. I mean, casa. That's crazy. Cioè, è pazzesco. Talk about determination. Se parliamo proprio di determinazione. Talk about action. Parlando proprio di azioni. And they lowered this man through the roof and they brought him to the bottom right in front of Jesus. E calano questo amico paralitico attraverso il soffitto e finisce davanti a Gesù. And it says in verse 5 that when Jesus saw their faith. E nel versetto 5 dice quando Gesù vide la loro fede. Something happened. Qualcosa è successo. Heaven opened up. I cieli si sono aperti. When Jesus sees your faith in action. Quando Gesù vede la tua fede messa in azione. Something happens. Qualcosa succede. And we witness the first miracle in this situation. E noi possiamo essere testimoni del primo miracolo in questa situazione. Because there were two miracles in this one story. Perché in realtà in questa storia sono accaduti due miracoli. I call it the story of the double miracle. Io la chiamo la storia del doppio miracolo. Jesus says to the paralytic, Gesù dice al paralitico, son, your sins are forgiven. Figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. What do you mean my sins are forgiven? Ma cosa vuoi dire i miei peccati sono perdonati? I came here to get a healing on my body. Cioè io sono venuto qui per essere guarito fisicamente. My friends went through everything they went through so that I could get healed. I miei amici hanno fatto tutto quello che hanno fatto così che io potessi essere guarito. And you're telling me my sins are forgiven. E tu adesso mi dici che i miei peccati sono perdonati. You see, Jesus saw this man needed something even greater than his body being healed. Vedete, Gesù sapeva che questo ragazzo aveva bisogno di un qualcosa di ancora più grande rispetto alla sola guarigione fisica. Jesus knew that this man needed the miracle of salvation and forgiveness and the gift of eternity. Gesù sapeva che questo uomo, questo ragazzo aveva bisogno del dono della salvezza e dell'eternità. You see, you need to understand, it would have been very easy for Jesus to put his hand on him and say, be healed. Sapete, dovete comprendere che sarebbe stato molto facile per Gesù imporre le mani e dire "Sì, guarito". Because he's all powerful. Perché lui può tutto, è onnipotente. But he paid a very high price. Ma lui ha pagato un prezzo molto molto alto. To be able to give us the gift of salvation and forgiveness and freedom and redemption. Affinché lui ci potesse dare il dono della salvezza, del perdono e della vita eterna. You know when you step out in faith? Sapete, quando noi facciamo un passo di fede, and you put your work in action, e quindi, you put your faith in action, e quindi mettiamo la nostra fede all'opera, and you work with determination, e quindi lavoriamo con determinazione, and you work with a deep conviction, e lavoriamo motivati da una convinzione profonda, to what God has called you to do, in quello che Dio ci chiama a fare. He does above and beyond what you're even expecting. Vedete, come on. Dio fa molto molto oltre quello che noi ci aspettiamo. Right? He surprises us. Lui ci stupisce. And he throws in something extra. E lui mette in tutto qualche extra, qualche bonus. And then he says, I tell you, get up. E poi dice, ti dico, alzati. Take your mat. Prendi il tuo lettuccio. And go home. E vai a casa. And he stood up. E lui si alzò. And he walked out in front of everyone. E uscì fuori davanti a tutta la folla. What do we learn from this story? Che cosa possiamo imparare da questa storia? That faith leads to action, to good work. Che la fede ci guida all'azione, al fare delle buone opere. Action produced by your faith leads to the supernatural. E azioni prodotte e spinte dalla nostra fede guidano al miracolo. Do you know that if it weren't for these four friends who decided to do something good for their friend? Sapete il lavoro di questi quattro amici che hanno deciso di fare qualcosa. If they didn't do that, se loro non avessero fatto nulla, that paralyzed man would have never been healed. Quel paralitico non sarebbe mai stato guarito. That man would have never been saved and received the gift of eternity. E quell'uomo non avrebbe mai ricevuto la salvezza, il perdono e la vita eterna. Who's the paralytic person in your life? Chi è il paralitico nella tua vita? What is the paralytic situation in your life? Qual è la situazione paralizzata nella tua vita? Who is the paralytic man in your church? Chi è il paralitico nella tua chiesa? I wonder how many times miracles are not realized because of our lack of faith and good works. Mi domando quante volte i miracoli non succedono a causa della nostra mancanza di fede e di azione. In this story, two miracles had so much impact. In questa storia, questi due miracoli hanno avuto un così grande impatto. Verse 12, it says that everyone in the house was amazed. Nel verso 12 c'è scritto che tutti quanti in quella casa furono meravigliati. And they praised God. E adorarono il Signore, Dio. And they said, "We never seen anything like this." E dissero, noi non abbiamo visto niente del genere prima d'ora. Wow. Wow. Pieno Vangelo, I want to declare to you over you tonight. Chiesa, io voglio dichiarare sopra ognuno di voi questa sera. I declare that your acts of faith and your work produced by faith. Io dichiaro che le vostre opere di fede, il vostro lavoro spinto dalla fede will have the power to lead people to worship and praise the King of Kings. Avrà la potenza di guidare persone ad adorare e a lodare il Re dei Re. And cause people to say all over this nation, I have never seen anything like this. E porterà ogni persona in questa nazione a dire, io non ho mai visto niente del genere prima d'ora. What do you see for the future of your church? Che cosa vedi nel futuro della tua chiesa? What do you believe when it comes to the expansion of your church? Cosa credi quando si parla della crescita della chiesa stessa? What is in your faith system for this church? Che cosa c'è nel sistema della tua fede in questa chiesa? Che cosa sì. Che cosa c'è nella fede che hai per la tua chiesa? What is God calling you to do? Che cosa Dio ti chiama a fare? Because the only way we will achieve it. Perché l'unico modo attraverso il quale noi raggiungeremo tutto questo is through the eyes of faith. È attraverso gli occhi della fede. This work of the future of this church to reach 500 people, 1000 people, 2000 people. Questo lavoro, quest'opera per il futuro di questa chiesa nel raggiungimento di 500 e poi 1000 e poi migliaia di persone. People with places with multiple locations all over Italy. Multiple locations all over Italy. Diverse occasioni in tutto il territorio italiano. It can only happen through your work of faith. Questo può succedere solo attraverso l'opera spinta dalla fede. And faith is expectation that it's going to happen. E la fede è aspettarsi che tutto questo sta per succedere. That we will see it happen. Che noi lo vedremo veramente succedere. That you would see yourself as a catalyst of the future of God's vision for your church. Che tu puoi vedere te stesso come parte del futuro che Dio ha per questa chiesa. In the Bible we see God spoke to Jeremiah and he called him to a great purpose. E la Bibbia ci he went to Jeremiah and he called him to a great purpose. Vediamo nella Bibbia che Dio va a Geremia e lo chiama per un grande proposito. And Jeremiah said, e Geremia dice, but God, I'm too young. Ma io non sono che un ragazzo. I don't have anything to say. Non ho niente da dire. And God said, Jeremiah, what do you see? E Dio dice, Geremia, che cosa vedi? This is an important question. Questa è una domanda importante. Because the future of this church is heavily dependent on you asking the very same question. Perché il futuro della chiesa dipende dalla risposta di questa stessa domanda. What do you see? Che cosa vedi? What future do you see for your church? Che futuro vedi per questa chiesa? How many people do we see coming to faith in Christ Jesus through your church? Quante persone vediamo in fede venire far parte di questa chiesa? Quante persone possiamo vedere che si battezzano in acqua e con Spirito Santo? Quante persone possiamo vedere che sono trasformate dalla potenza dello Spirito Santo? Quante matrimoni possiamo vedere che saranno restaurati, trasformati tramite la visione di questa Chiesa? Quanto possiamo vedere i leaders che sono formati e mandati? Quanto missionari possiamo vedere che sono chiamati e mandati dappertutto il mondo? Quante chiese noi vediamo che si fonderanno through il ministero di pieno Vangelo? Che cosa tu vedi? What do you see? Worship team, you can come. Mentre il team può venire. When Disney World finished being built in Florida, quando il parco di divertimenti Disney World è stato finalmente costruito in Canada e il lavoro è finito. They built Disney World in Florida. In Florida hanno costruito questo parco di divertimenti. And Walt Disney passed away just before it was open. E Walt Disney, la persona, morì prima del termine di questa costruzione. And many people were saying, "Oh, it's so sad that Walt Disney isn't alive to see this beautiful place, the happiest place." E tante persone dicevano, "Ma che peccato che Walt Disney, il signor Walt Disney non è vivo per vedere questo posto meraviglioso." And someone from his team said this. E qualcuno parte del suo team ha detto, "Well, he did see it." La realtà è che l'ha visto. That's why Disney World is here. Ecco perché Disney World esiste. And Disney World went to California. Ed ecco perché Disney World ha raggiunto la California. And Disney went to Paris. E poi Parigi. Because someone saw it. Perché qualcuno l'aveva già visto. What do you see? Che cosa vedi? When the church is filled with faith, quando la chiesa è piena e ripiena di fede, it has a different mindset. Ha una mentalità diversa. It has a risk-taking mindset. Vuole ed è disposta a correre dei rischi. It has a big thinking mindset. Pensa in grande. How we view the future as a church changes everything. Come vediamo il futuro in quanto chiesa cambia ogni cosa. Rather than thinking we can't do this, it's impossible. Piuttosto che pensare noi non possiamo fare questo, è impossibile. We start to declare and say, why not? Dobbiamo incominciare a dichiarare, perché no? Why can't we make a difference? Perché non possiamo fare una differenza? Why can't we be a catalyst perché to non see possiamo transformation essere come protagonisti di questa trasformazione? Perché non possiamo vedere il rinnovo venire in questo paese, in questa nazione dell'Italia? Perché no? Perché non possiamo vedere il cambiamento del clima spirituale in questa nazione? Perché no? If not now, then when? Se non ora, allora quando? That's faith. Questa è fede. Faith believes there is more. La fede crede che c'è di più. Don't just live in your past. Non vivere nel passato. Don't just live in your now. Non vivere solo nel presente. But let your faith be stirred up tonight. Ma che la tua fede possa essere risvegliata questa and sera. And step into your future now. E now. Che tu possa camminare e entrare nel tuo futuro let's start oggi. Walking in our future now. E cominciare in a camminare Jesus nel futuro oggi. Nel nel nome in di Jesus Gesù. Name, by faith, nel nome di Gesù, I walk per in fede. My future now. Now. There is more. Sapete che c'è di più? Don't just live in your past. Non more. Vivere nel passato. Time is gone. I don't even know what time it is. Il tempo è finito, non mi rendo neanche conto di che ora è. It's the last day of the conference. Ma è l'ultimo giorno della conferenza. But we're gonna build this church. Noi edificheremo la sua chiesa. Through the work of our faith. Attraverso le opere della nostra fede. Because we're motivated by love. Perché noi siamo motivati dall'amore. You guys have this so down packed so well. Questo fa parte proprio di noi, di chi siamo. I observed you in Ecclesia. Durante la conferenza Ecclesia vi ho osservato. And I saw the motivation of love. E io ho riconosciuto questa motivazione spinta dall'amore. All over that conference. Durante tutta la conferenza. I observed your pastors. Ho osservato i vostri pastori. Your leaders. I vostri leader. Your volunteers. Ogni volontario. Those that were serving. Tutti quelli che stavano servendo. Translators included. Chi stava traducendo? You serving from the beginning to the end. Voi avete servito dall'inizio alla fine. Giving attention to detail. Dando attenzione ai dettagli. You know what I saw? Sapete cosa ho visto? I saw a beautiful labor of love. Ho visto un bellissimo sforzo e lavoro di amore. The whole team mobilized in serving with excellence. Tutto il team che si mobilitava e serviva in maniera eccellente. Motivated by love, laboring. Motivati dall'amore, sforzandosi. Laboring. Sforzandosi. Why? Perché? Because you love the church. Perché tu ami la chiesa. Because many pastors needed to be there. Perché tanti pastori avevano bisogno di essere lì. Many people needed to experience what we experienced. Tante persone avevano bisogno di sperimentare quello che voi sperimentate. Because we sense an urgency in the air that now is the time. Perché quel senso d'urgenza che ora è il tempo. For a new church to rise up in this nation. Per una nuova chiesa di essere innalzata. Because we love this nation. Perché noi amiamo questa nazione. So much that we refuse to stand back. Così tanto che ci rifiutiamo di stare fermi indietro. Allowing the enemy to continue to have dominion over thousands and millions of people and families and marriages and pastors and churches. Perché vogliamo il cambiamento per i leader, per le famiglie, per i ministeri, per chiese e chiese. Amen, chiesa? You're doing it because it's a labor of love. Sei qui per sforzarti spinto dall'amore. And you're gonna keep doing that. E voi continuerete a farlo. And we close with this. E concludiamo con questo. We endure. Noi perseveriamo. By hope. Nella speranza. Not in pieno Vangelo. Non nel nella chiesa pieno Vangelo. But in Christ Jesus. Ma nella speranza in Gesù Cristo. You see, I see a lot of churches in North America and Canada. Vedete, nel Nord America, in Canada, io ho visto tante chiese. Filled with people that work in faith and motivated by love only for a short season. Piene di persone che si adoperano nella fede, si sforzano nell'amore, ma solo per una stagione. They start well with all good intentions. E quindi incominciano bene con tutte le buone intenzioni. But it fizzles out within a short time. Ma tutto finisce in un breve termine. But tonight. Ma stasera I see a church. Io vedo una chiesa. I see a people. Vedo delle persone who have made a decision. Che hanno preso la decisione. That says I'm going to endure for the long term. Che dicono no, io continuo, yeah. Continuo a lungo termine. I'm going to say yes. Io dirò di sì. I'm going to support and I'm going to sacrifice for the vision. E continuerò a sopportare, a sacrificarmi. And I'm going to be here in 5 years. E io voglio essere qui in 5 anni. And I'm going to serve harder and I'm going to serve better. E continuerò a servire, a lavorare duro, a servire meglio. For the next 10 years. Per i prossimi 10 anni. I'm going to make a commitment of loyalty in my heart. Mi prenderò un impegno. sogno nel cuore. For the great future that God has for this house. Per il futuro meraviglioso che Dio ha per questa casa. We are going to endure in hope inspired to us by God. Noi continueremo e perseveremo nella speranza in Cristo. This church. Questa chiesa. Is building a legacy. Sta costruendo. Sta lasciando un'eredità. I feel it. Io lo sento. I want you to leave a legacy. Dio vuole che voi lasciate un'eredità. There's a legacy anointing on this church for Italy. C'è un'eredità d'unzione da questa chiesa per l'Italia. Can you feel that tonight? Potete sentirla questo? Questa on. Sera? Can you feel it tonight? Puoi sentirlo? Ci credi questa sera? You can't forget that your hope and your strength is in Jesus. Tu non puoi dimenticarti che la tua speranza e la tua forza è in Cristo. Your strength will not come from this church, it's going to come from the Holy Spirit. Che la tua chiesa non proviene da la tua forza non proviene da questa chiesa, ma da Cristo. So if we have teams and we have workers and we have laborers. Quindi se noi abbiamo team e operai e persone che si adoperano. I want to say that as you wait on the Lord, your strength will be renewed. Io vi voglio dire che riposandovi nel Signore, Lui sarà la vostra forza. You will never need to worry about burnout. E tu non ti dovrai preoccupare di esaurirti. But you will endure until you reach the finish line. Ma tu ce la farai fino all'ultimo. Till you reach the finish line. Fino a che non raggiungi il traguardo. The purpose of the church is to give out work. L'obiettivo della chiesa è di dare il lavoro. Di dare lavoro. Some of you are already thinking, oh, 2020 Ecclesia, oh Gesù. Alcuni di voi stanno già pensando, ma Ecclesia 2020, mamma mia. Chi me la fa fare? Non ce la faccio. It's too hard, it's too much work. È difficile, c'è così tanto lavoro da fare. But it's God's job to strengthen us. Ma è responsabilità di Dio darci la forza. So if you're feeling tired and if you're feeling weary, because that's a reality, let's face it. Quindi se tu ti senti stanco, se tu ti senti debole, e succede, cioè siamo onesti. We shouldn't be asking the church to give us less work. Non dobbiamo chiedere alla chiesa di darci meno lavoro da fare. Because then we're asking the church to be disobedient to what God has chosen them to do. Perché in quel caso staremmo chiedendo alla chiesa di essere disobbediente a quella che è la volontà che Dio ha per la chiesa. We can't ask the church to do less. Non possiamo chiedere alla chiesa di fare di meno. Because we are motivated by love. Perché noi siamo motivati e spinti dall'amore. So we actually have to do more. E quindi in realtà noi dobbiamo fare ancora di più. Because there is still thousands of people in this city and in this nation that need to say yes to Jesus. Perché ci sono ancora migliaia di persone in questa città e in questa nazione che devono ancora dire di sì a Gesù. The path for your future of this church is clear and it's just the beginning. Il sentiero tratto per questa chiesa è chiaro e noi siamo solo all'inizio. But you will need the Holy Spirit to strengthen you. Ma noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci dia la forza. Come on, let's stand up together. Perché non tonight. Ci alziamo in piedi? How many of you need the strength of the Holy Quanti Spirit tonight? Hanno bisogno della forza da parte dello Spirito Santo. The Bible says that may the God of hope fill you with joy and peace because you trust him. La Bibbia dice che la speranza in Cristo vi dia con la gioia e la pace possa traboccare. That you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Che tu possa traboccare in speranza grazie alla potenza dello Spirito Santo. So I ask you tonight to put your trust, to put your faith in him. Così io stasera ti chiedo di affidarti e di riporre la tua fiducia in lui. Many of you here tonight, there is a great work of faith before you. Agree, there is a great work of faith before us. Molti di voi oggi devono decidere di credere che c'è un'opera di fede davanti a noi. You believe it. Tu ci credi. There is a great labor of love before us. Amen. C'è un grande right? sforzo spinto dall'amore in noi, in mezzo a noi, vero? But you might feel frustrated because the wind in your sails is gone. Ma forse ti senti un po' frustrato perché ti senti affaticato. You're asking, how are we gonna do this? E dici, ma com'è che possiamo fare tutto ciò? I want to take this opportunity to pray with you right now. E io voglio prendere questa opportunità per pregare per voi. How are you feeling tonight? How are you feeling tonight? Come ti senti questa sera? Do you need the presence of the Holy Spirit right now? Hai bisogno della presenza dello Spirito Santo? Because he is here in this room right perché now. Lui è qui in questa stanza in questo momento. And he's gonna fill you. E lui ti sta per riempire. He's gonna fill you. Lui ti riempie. Even now, he's filling anche you. Adesso in questo momento lui ti sta riempiendo. Put your hands up to the, perché to the non alzi le tue braccia and receive, e ricevi receive the filling of the presence of Jesus. Ricevi il riempimento della presenza receive di Gesù. The strength of God Almighty. Come on, la forza che viene dallo Spirito. Come on, receive his strength tonight. Ricevi, ricevi questa forza. Receive, he's filling you tonight. Ricevi questo riempimento questa sera. You love the generations. Oh, tu ami le generazioni. You love your nation. Tu ami la tua nazione. You love the world around you. Ami, ami la, il mondo attorno. And you want to do more for God. You want to do more for God. E tu vuoi fare di più per Dio. But you need his strength and you need his presence and ma you need his power. Hai bisogno di essere rafforzato, hai bisogno di essere riempito da lui. So Holy Spirit, right now I declare the strength of God Almighty. Quindi Spirito Santo, io adesso dichiaro la forza di Dio su di noi. Dichiaro la presenza dello Spirito Santo stasera. Io dichiaro, Signore, che tu mandi la tua speranza stasera. Che tu cominci, Signore, che tu si rialza, Signore, adesso che tu si riempi con gioia e con forza, che gli occhi di fede che possono essere rinnovati stasera, che noi possiamo vedere il nostro futuro, perché tu ci hai scelti, tu ci hai scelti, tu hai scelto questa casa stasera, nel nome di Gesù, hai scelto questa chiesa stasera, nel nome di Gesù, e preghiamo per la tua forza, la tua gioia, la tua pace che ci riempi, nel nome di Gesù.